Cosa fare per rimettersi in forma? Beh, facile, tutta la moderna scienza dell'alimentazione punta veramente l'attenzione sulle spezie. Le grandi spezie, in primis il curry, si parte da un'osservazione eccezionale: lì dove il curry è usato in maniera costante, la percentuale del tumore alla prostata si abbatte dal 12% in Occidente al 2% in Indonesia, eccetera, dove viene usata questo mix di spezie in maniera cospicua. Cosa fa questa spezia? Fa miracoli. Innanzitutto è un mix particolare, in primis c'è la curcuma, poi c'è il pepe nero, il peperoncino, l'anice, l'aneto, eccetera. Ognuno di esse, se noi lo analizziamo queste spezie con un tracciato gas cromatografico, vediamo che ognuna di esse ha centinaia di sostanze, quindi prendere un cucchiaino di curry vuol dire assimilare un migliaio di sostanze e il 99% sono sconosciute. Spesso chi produce integratori produce la curcuma, che è in primis la spezia più importante del mix del curry, ma è un errore a mio avviso. Perché? Perché la curcuma da sola non funziona. La curcuma funziona se viene anche usato il pepe, perché la piperina, che è la molecola del pepe nero, si lega molto bene alla curcuma per sviluppare praticamente le sue proprietà antinfettive, energizzanti, eccetera. Quindi, scusi dottor Vestito, se la usiamo a casa possiamo abbinarle? Deve abbinarle, il curry è già pronto in qualsiasi supermercato, è un mix di spezie e soprattutto è un'arma importantissima per togliere di mezzo il sale. Se lei produce, se lei cucina della pasta, dei risotti soprattutto, si aggiunge molto curry, può evitare il sale, che come sa è la rovina di noi occidentali, perché ne usiamo soprattutto di quello occulto molto più di quello che ci serve. In soldoni cosa accade? Noi che facciamo clinica pratica, analizziamo un ragazzino che di 10-12 anni si ammala continuamente a scuola di tonsilliti. La nostra esperienza è questa: se noi diamo a questo ragazzino della cannella al mattino nel latte con del miele, che ha un sapore eccezionale, buonissimo. Al pomeriggio facciamo ad esempio una merenda antica che è la melacotogna, succo di limone e cannella, che è un'altra bomba energetica e assolutamente antica e di basso costo. Se a pranzo noi diamo un buon risotto con del curry, alla sera un pollo al curry, beh, questo bambino, secondo la mia esperienza, non si ammala più di tonsillite, o quasi. Quindi lo stesso vale per le bronchiti recidivanti, lo stesso vale per l'infezione via urinaria.